La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Eccoci, un buon fine settimana a tutti da Franco D'Assisti. Questa è La Rosa Purpurea, il settimanale di cinema di Radio 24 nel formato estivo più lungo per parlare di più film, più cinema, più interviste, più personaggi per tutta questa estate. Un'estate che è già cominciata al cinema, si attende l'uscita di qualche blockbuster che possa movimentare il botteghino, ma per il momento invece è un certo cinema d'autore. Questa tra l'altro è una buona settimana in questo senso, perché stanno uscendo film, escono film di un certo spessore, di una certa qualità, in un botteghino che però non dovrebbe avere grossi scossoni da questo weekend. Tra l'altro ricordiamo che per quanto concerne lo scorso fine settimana, in prima posizione, ma con incassi veramente bassi, si è piazzato Le origini del male, e quindi potremmo dire, aspettando Transformers 4 che arriverà anche in Italia a fare incetta di incassi, la stagione latita un po'. Le origini del male, 282.000 euro nel weekend sono bastati per andare in testa alla classifica. Pensate un po', Babysitting secondo con 234.000, Maleficent ne ha incassati 208.000, però con un globale che sfiora i 13 milioni di incasso e ne fa, se non erro, vado a memoria, l'ottavo film della stagione proprio a partire dal settembre scorso di quest'anno. E allora noi andiamo invece a curarci di quelli che sono i film di questo fine settimana. Lo facciamo partendo con un film argentino che aveva un po' contrassegnato la settimana della critica a Venezia nello scorso mese di settembre, settimana della critica che tra l'altro settimana prossima invece ci darà i titoli che vedremo a Venezia 2014. Da Venezia 2013 arriva La ricostruzione, dicevamo targato Argentina, nel weekend della finale mondiale anche un film argentino nelle sale cinematografiche, un film molto duro, molto introspettivo e che racconta la storia di un uomo alle prese con un dramma personale importante. Sentiamo la clip, fra poco ne parliamo con Boris Sollazzo. Trato di ripassare mentalmente lo che passò alla clinica los últimos días. Le cose che non mi acuerdo, che non so se passarono o no. Los médicos, lo che nos dijeron. E non so se non nos equivocamos. E eso non me deja dormir. Mi mujer luchó contra su enfermedad durante 3 años. Abbiamo sentito il trailer con la clip in lingua originale, il film è targato Juan, firmato Juan Taratuto, Diego Peretti è l'attore protagonista insieme a Claudia Fontane e Alfredo Casero, ma Diego Peretti in Argentina è una vera e propria star. La ricostruzione, la storia di un uomo duro, difficile, che lavora in una sorta di base petrolifera, un solitario, un lupo solitario che ha subito una perdita dalla quale non è riuscito mai a uscire del tutto. C'è un amico che ha bisogno di un intervento serio al cuore, ha bisogno di aiuto, diventa un po' la ragione della sua vita, ma le cose ancora una volta nella sua vita non andranno per il verso giusto. Un saluto a Boris Sollazzo, che saluto, ciao Boris. Buongiorno a tutti e buongiorno a te Franco. La ricostruzione, abbiamo detto, uno dei film più duri ma anche più commoventi, più freddamente commoventi, se può passare queste due parole che possono sembrare in antitesi l'una con l'altra, visti a Venezia l'anno scorso. Beh, per una volta apriamo proprio con il film della settimana, e di sicuro di quelli proposti in uscita l'opera più bella, più completa, più potente, ecco, in questo senso forse non si deve parlare neanche di freddezza. La ricostruzione ha la capacità di restituirti il cinema con la stessa inevitabile forza della vita. La vita non è fredda, la vita semplicemente succede, capita, e quello che succede al protagonista di questo film è semplicemente dover affrontare una delle prove più difficili che l'esistenza ti mette davanti e poi trovare una ragione di vita in un altro affetto, in qualcos'altro che ti rimetta alla prova, che ti faccia di nuovo sentire utile, in questo caso appunto, e come spesso ci capita, è l'amicizia. Però non basterebbe questo per renderlo un film molto bello. La bellezza del film sta, a mio parere, come spesso capita, nei dettagli, nella capacità di raccontare queste storie in fondo di normale eccezionalità, con particolari che sono appunto la recitazione di questo protagonista, che sono alcune scene, penso alle foto della moglie, dell'amico in ospedale, che sono comunque una volontà di andare a fondo nell'anima degli uomini e delle donne che vengono raccontati, ma soprattutto degli spettatori che qui vengono messi in gioco. È un po' la ricostruzione di una vita, il titolo mai è stato più intelligente e centrato, ed è anche la ricostruzione di ciò che deve valere per noi che guardiamo. Quindi non posso che promuovere a pieni voti questo film, perché mi ha commosso, sì, forse freddamente, ma com'è giusto rimanere commossi di fronte alla vita. E allora questo per quanto concerne la ricostruzione, abbiamo detto forse la proposta più importante sotto il profilo qualitativo e cinematografico della settimana, lo ricordo, in 10 sale cinematografiche in questo primo weekend, ma con la presenza comunque nelle città più importanti, per cui veramente il consiglio di non farselo sfuggire, perché questo tipo di film va aiutato dallo spettatore, perché deve sposarlo un pochino e cercare di promuoverlo. È un film che sono film che contano chiaramente poi sul passaparola. La ricostruzione, la prima delle nostre proposte, La madre, titolo veramente molto molto suggestivo, è la seconda. Devo darti questa, da parte di mio figlio Paolo. Non ci credo. Ascolti, lei è giovane, ha tutta la vita davanti, dimenticherà. Domani, quando Paolo celebra la messa, vengo in chiesa. E dall'altare dico tutto. Se lo farai, è segno che Dio lo vuole. Ma tu non lo farai. Abbiamo sentito una clip del film La madre, diretto da Angelo Maresca, con Carmen Maura, che avete potuto sicuramente riconoscere, parlare in italiano, insomma, la grande attrice spagnola, protagonista con Pedro Almodóvar, con tanto cinema spagnolo negli anni 80 e 90. Stefano Dionisi, che ritroviamo, un nome di un attore, di un volto al maschile, che è stato un nome di punta, sempre di quel cinema italiano degli anni 90, che forse andrebbe un pochino rivisitato e riscoperto in questo film, che si intitola, curiosamente, non è la prima volta ovviamente che si intitola La madre, un film, ma come un film uscito l'anno scorso, quello era un horror, anche quello argentino, che partiva da un cortometraggio ed era diventato un bellissimo lungo. Qui non è sicuramente un horror, anche se il clima, Boris, è sicuramente un clima cupo. Beh, sicuramente è un tema cupissimo, a partire dalla scenografia, che è questa struttura dell'Eur di Roma, che non è una chiesa ma diventa una chiesa molto affascinante, no? Con un'architettura molto moderna, squadrata, che dà un senso forte, anche in questo caso, di fredda spiritualità, che poi però diventa incandescente. Il film è sicuramente cupo, ma anche carnale, ferocissimo, perché rappresenta un triangolo al centro del quale c'è Stefano Dionisi, c'è un prete che ama sua madre, la madre del titolo, ama Dio più di qualsiasi altra cosa, quindi prova una fede anche lacerante in qualche modo, ma ha anche un po' un rapporto problematico con i suoi sentimenti e il suo corpo, proprio perché non ha vissuto forse in maniera del tutto sana questi grandi amori che percorrono la sua vita. E la cosa interessante del film, che è un film molto discontinuo, passa da momenti di umorismo involontario a momenti di altissimo cinema, è proprio il fatto che i momenti, gli amplessi tra Laura Baldi e Stefano Dionisi, che sono molto audaci sia nel modo in cui vengono ripresi, sia anche nel modo in cui vengono, diciamo, praticati, hanno lo stesso grado di passionalità, ambiguità e forza che hanno i dialoghi, chiaramente castissimi, tra la madre, Carmen Maura, bravissima in questa parte di fanatica, traumatizzata, che cerca un'espiazione attraverso questo figlio, cerca di ricongiungersi a un Dio che lei chiama sempre, che lei prega sempre, ma che non sente vicino, e cerca di farlo attraverso questo figlio. E anche quei dialoghi tra loro due, dialoghi molto religiosi, molto spirituali, nascondono però quel rapporto ambiguo tra una madre e un figlio che può nascere. E questa è sicuramente la parte più interessante del film di Maresca, che riesce a scavare sia dentro i corpi sia dentro le anime. Il problema è che questi momenti sono talmente alti, talmente forte, talmente anche potenti grazie alla fotografia, alla scenografia e alla regia, che poi non trovano riscontro nel resto del film, che invece è sempre molto discontinuo, in alcuni momenti sbaglia tono, anche perché il tono deve essere molto alto. Detto questo, però, è una sfida che Maresca si prende ed è molto forte, molto audace. È difficile pensare in questo momento a un film in cui un prete decide, insomma, di tradire i propri voti, non in quest'Italia. Non sembra essere un qualcosa che un argomento particolarmente amato o praticato, e quindi questo va sicuramente elogiato per quanto riguarda il regista. Quindi un film interessante che fa vedere, secondo me, il talento di Maresca, che tra l'altro, appunto, ripesca un lavoro di Grazia Deledda e lo attualizza molto bene. Sicuramente incompiuto, sicuramente non riuscito del tutto, ma ripeto, da vedere e da seguire soprattutto il regista in futuro. Ti prego, evita quella donna. Giurami che non la vedrai mai più. Ora calmati, ti prego. La tentazione, se viene appagata, subito ti gratifica, ma poi ti toglie la pace. Il suo spirito malvagio è ancora qui e vuol farti diventare come lui. Ma io glielo impedirò. Sei l'unico uomo che abbia mai amato. L'amore di Dio viene prima di tutto. Io non lo so se riuscirò a superarla, mamma. La rosa purpurea. L'estate sta finendo, è un anno se ne va. Sto diventando grande, lo sai che non mi va. Cantavano così Righeira tanti, troppi anni fa. L'estate sta finendo, e quel modo di dire l'estate sta finendo, grazie a questa canzone, è diventato talmente, come dire, presente nell'immaginario collettivo, che adesso diventa il titolo di un film. L'estate sta finendo, appunto, di Stefano Tummolini, con un cast di giovani attori, che interpreta un gruppo di amici, appunto, alla fine dell'estate, un gruppo di studenti universitari che si prepara a trascorrere un weekend sul litorale romano. Le cose cominceranno come in una commedia, con un gruppo di ragazzi che si conosce, che vuole divertirsi, vireranno a un certo punto verso il dramma. Sentiamo la clip. Sembra un alieno, eh? Manuel, è quello che stavi conosce. Ma dai. Ci troviamo chiaramente di fronte a un caso di sindrome della figa multipla. Staccarti il costume a morsi, sai? Oh, che paura! Boris, l'estate sta finendo, mi viene da dire, da una parte la peggio gioventù, nel senso che c'è sicuramente anche l'analisi di una borghesia viziata i cui figli forse sono addirittura peggio dei padri, e però mi verrebbe da dire anche un tranquillo weekend di paura a un certo punto. Sono d'accordissimo. Volendo citare un altro classico del genere, tra virgolette, io la chiamerei gioventù abbrustolita, senza la dignità di essere bruciata, ma comunque senza neanche la possibilità di riscatto. Tummolini è un regista molto interessante. Lui fece Un altro pianeta, che andò alle giornate degli autori in piano sequenza, e qui in fondo, pur non riprendendo lo stesso stile, non si allontana molto da quel film là, perché prende un'unità di spazio, che è questa villa di Sabaudia, del più ricastro di questa comitiva che se ne va al mare fingendo di prepararsi degli esami, in realtà cerca, come dire, dello svago a buon mercato, e dall'altra prende una sorta di unità di tempo. Ecco, certo, non è quelle poche ore che venivano raccontate all'interno di quel film. In questo caso è un weekend, però il principio è lo stesso: c'è la coralità, c'è la ricerca di un ritratto sociologico e sociale in questo caso una generazione. La cosa interessante probabilmente è che Tummolini si immerge in questa gioventù, fino a quasi a raccontarla in maniera banale in alcuni momenti, ma probabilmente molto reale. Penso al dopo cena, in cui si vantano delle loro conquiste, in cui si vantano dei loro vizi, in cui fanno apparire normale tutto quello che in una qualsiasi discoteca spesso senti come dialogo, monologo da parte del figaccio del gruppo. E il film alla fine si fa guardare, è molto interessante, ovviamente non è all'altezza dei riferimenti che abbiamo fatto in precedenza, ma probabilmente non lo vuole neanche essere, vuole essere uno sguardo fugace su quello che siamo diventati e su quello che sono diventati i ragazzi oggi, molto più attenti all'aspetto esteriore o a ciò che hanno nel portafoglio o soprattutto a ciò che hanno nel portafoglio gli altri. Non a caso forse la parte più interessante del film è proprio la lotta di classe, che a un certo punto, scoppiato il dramma, si crea. Lo scoprire che comunque anche in questo mondo fatto di lustrini e paillette, potremmo dire, c'è comunque questa divisione, non si è interrotta, c'è una divisione che sembra vecchia di un secolo che ritorna potentissima, e questa è forse la cosa più interessante. Tumolini è un regista interessante, quello che deve fare secondo me è però fare un salto in più, un salto di qualità in più, perché questa sta diventando uno scorciatoio troppo facile, un luogo sicuro a cui approdare. Allora, abbiamo parlato anche dell'estate sta finendo, un'altra delle novità al cinema in questo fine settimana. A questo punto cominciamo a giocare, come da tradizione, con due clip, due tracce di un film misterioso che dovete indovinare. Allora, quando è che vuoi fare avere... L'aborto? Prima è, meglio è. D'accordo, vedo quando quel tale può farlo. Quel tale? Spero sia un dottore. E allora, se avete già indovinato di che film si tratta, a parte che siete bravi, ma dovete scriverci titolo e vostro indirizzo alla rosapurpure@radio24.it per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film che sono a disposizione per chi indovina il sabato e la domenica, visto che abbiamo ritrovato, ve lo ricordo, anche la replica domenicale. Più tardi però vi faremo ascoltare un'altra traccia. Ebbene, a questo punto andiamo, viriamo sull'horror della settimana. Sapete, come abbiamo detto già la settimana scorsa, che l'estate è assolutamente il momento dell'horror. Ogni settimana ce n'è almeno uno, non sempre particolarmente riusciti, però insomma, per gli amanti del genere questo è un rifugio sicuro. L'estate significa che qualche horrorino in sala arriva. In 20 sale cinematografiche arriva questa settimana Paranormal Stories. Sentiamo questa clip. Allora andiamo. Sicuro che non vuoi venire? Sicuro. Non è che puoi farmi parlare con tuo fratello? No, non c'è. Non sai dirmi quando torna? Mamma dice che non torna perché è con gli angeli. Pietro. È così che si trattano gli amici. E allora, Paranormal Stories, un film che potremmo definire a episodi, Boris, nel quale ci sono una serie di storie, 5 storie dell'orrore più un prologo che, diciamo così, cercano di dare anche uno spaccato ampio di quello che è il genere per un gruppo, questa forse è una delle cose più interessanti, per un gruppo di registi nati fra l'81 e l'83, quindi c'è proprio una generazione che si misura con questo genere. Assolutamente sì, sarebbe interessante sapere se c'è anche della cabala dietro questa scelta di queste date di nascita dei registi. Scherzi a parte, un esperimento sicuramente interessante che viene dalla produzione di un bravo regista che non ha avuto molto spazio e che forse proprio con la sua attività di produttore sta cercando di darlo ad altre generazioni, che è Gabriele Albanesi. E, di sicuro ci sono tanti difetti in questo esperimento, ci sono sceneggiature molto fragili, ma non è che l'horror sia un genere che costantemente ci offra chissà quali script blindati, c'è qualche ingenuità anche visiva, però la cosa interessante è che tutti e cinque, in particolare Palma e Prolli, che di sicuro hanno fatto gli episodi più interessanti dei cinque, tutti quanti hanno qualcosa da dire, tutti quanti decidono di inserirsi all'interno del paese in cui stanno per raccontare qualcosa che ovviamente è fuori dalla credibilità, fuori dalla credulità. E cioè, ci sono dei momenti meravigliosi in cui un morto e un vivo discutono di calcio per internet, per esempio, che fa ritornare quella satira più scanzonata, più disincantata, anche più feroce che nel buon horror c'è. Tornando per esempio all'Estate sta finendo, di cui abbiamo appena parlato, c'è un episodio in cui delle ragazze diventano pirate della strada, fanno scattare una carneficina e loro sono esattamente la fotografia della generazione che voleva raccontare Tumminelli. E così via, cioè c'è sempre qualcosa di molto interessante, diciamo ogni 5 minuti del film. Chiaramente, essendo un film ad episodi, è un film molto discontinuo. Essendo un film fatto da giovani registi, ha anche molti momenti non riusciti. Però è davvero molto molto interessante l'esperimento che si fa, è molto intelligente da parte di Albanesi cercare di riscoprire e di ritrovare una generazione che possa far rinascere l'horror italiano, e bravi a questo punto anche ai produttori, perché fare un film episodio e fare un film horror non sembra proprio la priorità dei produttori italiani in questo periodo, ma forse si ricordano che c'era un periodo in cui dettavamo legge. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, stiamo ancora qui a parlare di cinema. Ci prendiamo una piccola parentesi dalla attualità cinematografica. Ci manca un film da raccontare che è mai così vicini. Sicuramente in termini di botteghino è il film da cui ci si aspetta di più per quanto riguarda questo fine settimana. Mai così vicini, lo ricordo, con Michael Douglas e Diane Keaton. Ma ne parliamo fra poco, perché prima, come dicevo, voglio raccontare un premio e soprattutto un personaggio che ha trovato la sua consacrazione, mai ne avesse avuto bisogno, una consacrazione che è cominciata a settembre scorso alla Settimana della Critica a Venezia, culminata proprio pochi giorni fa a Riccione con il Cinechak d'Oro 2014, il premio diciamo assegnato dalla rivista di cinema Chak, diretta da Piero De Tassis, per la migliore commedia dell'anno, ma anche per il miglior colpo di fulmine, per quello che è stato il film che ha fatto innamorare, diciamo così, il pubblico italiano. Stiamo parlando di Zoran, il mio nipote scemo, titolo azzeccatissimo peraltro, film diretto da Matteo Oleotto, ricordo interpretato da un grande Beppe Battiston, ma non solo, dal ragazzo che faceva appunto il ruolo di questo nipote che non era scemo, tutt'altro, era intelligentissimo, sapeva giocare anche molto bene a freccette, ma soprattutto arrivava dall'altra parte del confine e quindi parlava un italiano imparato su dei manuali che lo faceva sembrare quasi un personaggio dell'Ottocento calato nel nostro tempo. Un film veramente molto molto divertente, ma anche molto preciso, molto aderente, molto coerente con quelle terre. E allora Matteo Oleotto alla Rosa Purpurea per parlare di quest'anno straordinario. Sentiamo l'intervista. Dice che sei ciccione, faccia di merda e il ragazzino sembra scemo. Beh, saranno belli loro con le loro magliette da finocchi. Andiamo, Zero. Questo percorso cominciato a Venezia quasi un anno fa, che ti porta adesso a ricevere il Chak d'Oro, diciamo per la scoperta probabilmente. Come ti trovi a commentarlo un anno dopo quell'inizio in quella villa sulle calli veneziane del Lido? Guarda, proprio un paio di giorni fa sono andato, insomma, mi sono preso una giornata di ricordo per tutto quello che è accaduto. Non ci avrei scommesso, ecco, diciamo sinceramente, ero convinto che avevo fatto un lavoro fatto bene, questo sì, un lavoro fatto con grande umiltà, con grande serietà, con grande passione, però poi insomma come regista chiaramente uno comincia a perdere di lucidità, quindi insomma a un certo punto ho cominciato a vedere dei fotogrammi appiccicati con della gente che parlava e non riuscivo più a seguire, e quindi insomma ad oggi per me questo è veramente, continua a essere una grandissima sorpresa. Come è andato il film in sala e che tipo di pubblico pensi di aver incontrato? Quello che ti immaginavi o un pubblico diverso? Ma sicuramente abbiamo fatto il meglio per quello che potevamo fare, abbiamo fatto un po' di più rispetto a quello che ci immaginavamo il film potesse fare, il nostro film potesse fare, con la nostra distribuzione, con la nostra produzione, i nostri mezzi, e quindi questo diciamo già è stato per noi un avvenimento incredibile. Il film in sala è andato molto bene perché alla fine siamo arrivati a 120.000 spettatori, insomma, e adesso insomma le arene non si contano, quindi insomma il film continua a girare, continua a essere chiesto. Quindi, ma forse la soddisfazione più grande è che il film ad oggi l'abbiamo venduto in 29 paesi in tutto il mondo, e questa è stata una grande vittoria per noi. Noi volevamo fare un film diciamo che uscisse dai confini, parlando anche noi di confini, essendo uomini di confine, e ci siamo riusciti, e quindi insomma sapere che in 29 paesi in tutto il mondo hanno visto il nostro film e lo vedranno è veramente da grandissima soddisfazione. Oh signore, erano 3 mesi che non vedevo. 96 giorni. Dovevi vederlo, sembrava indemoniato. A un certo punto ha preso una padella e mi ha scottato una mano, guarda. E quando gli ho chiesto perché lo fai, sai cosa mi ha risposto? Che gliel'aveva ordinato la Madonna. Dopo tu non capisci. Hai capito? Fregarolo, sì. Alfio, io so come la pensi, però secondo me la religione non serve a niente. Se sei mona e credi in Dio, crederai nel Dio dei mona. Da grandi successi nascono grandi responsabilità, come recita il proverbio. Adesso immagino tu stia lavorando a qualcosa di nuovo, perché si fa così di solito. Se puoi dirci qualcosa, che cos'è, dove parerai, starai ancora nei tuoi territori, cercherai qualcosa di più, fra virgolette, universale? Ma sì, stiamo lavorando, ci siamo rimessi finalmente in moto, insomma le idee ci sono, stanno girando e a me piacerebbe molto continuare a restare a girare il mio prossimo film, diciamo, in quel meraviglioso territorio che è il Friuli Venezia Giulia, la vicina Slovenia, chissà forse la vicina Austria, insomma è... devo dire che quando sento delle storie su in quel territorio lì c'è qualcosa che mi emoziona, qualcosa che mi fa star bene, qualcosa che ho proprio voglia e piacere di raccontare e che sento anche essere, come dire, in grado di poter raccontare. Quindi, hai già individuato una storia più di altre? Sì, forse sì, diciamo, però non è ancora insomma, non è ancora lei, stiamo un po' girando attorno, stiamo un po' capendo, però insomma ho ben chiare le atmosfere, ci sono due tre luoghi che mi piacciono molto, da cui vorrei cominciare a partire, insomma ci sono degli attori, quindi insomma stiamo cercando di costruire, anche perché poi è stato abbastanza complesso il processo creativo, perché Zoran in qualche modo è arrivato senza che nessuno sapesse bene come si faceva a fare un film, abbiamo fatto ed è anche venuto bene, ci dicono, e quindi questo insomma non bisogna stare attenti a non volere come dire, forzare per ricreare il mood e il meccanismo di Zoran, e quindi insomma è tutto nuovo, è tutto di nuovo ed è tutto splendido. Io parlo Bressane, l'ambiente non mi aggrada, temo che non prenderò parte al cemento. Se tu non giochi ti mangio un braccio davanti a tutti, è chiaro? In questo ambiente la baronda è insostenibile. Fai 3 centri, hai capito? Quanti centri devi fare? 3. Quanti? 3. Hai parlato degli attori, di Battiston, come dire, non c'è null'altro da dire, trovo la sua prova, l'ho trovata incredibile, in mezzo a una carriera così, però veramente una delle prove che mi ricorderò per primo della sua carriera, però la scoperta è stato il ragazzino, è stato proprio Zoran. Intanto ti chiedo se ha imparato a parlare un italiano non ottocentesco e se gioca ancora a freccette. Allora, Zoran, in arte Zoran, diciamo, Rok Prasnikar, sta adesso frequentando un'accademia di teatro a Lubiana, un'accademia prestigiosissima, perché tutte le persone, i ragazzi che entrano, poi tendenzialmente vengono assunti dai 10 teatri stabili che sono in Slovenia, quindi insomma è una scuola chiaramente molto molto selettiva. Sono molto contento che sia entrato, sta lavorando benissimo, sono andato a vedere un suo saggio qualche giorno fa, insomma ed è veramente molto molto bravo, non parla una parola italiana, continua a parlare ancora con me, diciamo la cosa che gli piace più dirmi è devi stare muto, e mi ha confessato che un po' di birre se le sta pagando giocando a freccette con gli amici, quindi insomma sono come dire orgoglioso di lui. Hai capito? No. Il Messia Ha un segreto. Sa quello che vuole. Tu lo sai quello che vuoi. Colpire allo spicchio. Bravo! E allora questo per quanto concerne il film Zoran e Matteo Leotto. A questo punto è il momento di giocare con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Oh, però scusami se te lo dico, è da gran cazzone stupido, no? Il George Washington Bridge. Uno va a gettarsi giù dal Brooklyn Bridge, tradizionalmente. Il George Washington Bridge. Chi lo fa? Se avete indovinato di che film si tratta, un film straordinario di questa stagione cinematografica, La Rosa Purpurea, @radio24.it è proprio l'indirizzo di posta elettronica per scrivere titolo e vostro indirizzo e provare a vincere una delle due copie in Blu-ray che vi chiaramente sveleremo la prossima settimana. La Rosa Purpurea. Eccoci arrivati alla quarta parte della Rosa Purpurea. Vi dobbiamo ancora un film di quelli che sono in sala in questo fine settimana. Anzi, è quello che c'è più di tutti, perché esce in 230 schermi d'Italia. È un film che ha dei nomi di grandissimo livello, a partire dalla regia, che è affidata al grande Rob Reiner, al cast Michael Douglas, Diane Keaton, tanto per citare la coppia di protagonisti. Si intitola Mai così vicini. Ascoltiamo la clip. Di tutti gli inizi mai iniziati da due persone, inclusi adolescenti e scimmie, questo è forse il peggiore inizio di quella che è potenzialmente una relazione intima. Avanti, non era tanto male, dai. Oh, tu dici? Avevo un cane una volta che mi metteva il muso in mezzo alle gambe ed era molto più romantico di questo. Era molto più romantico di che fai? Fermo. Ah. Meglio. Meglio. Sì, va bene. Hai un odore fantastico. Il reggiseno non lo levo. Uno dei momenti, diciamo, teneri, pensate un po' agli altri, di questo film, che ha una scrittura che è un po', diciamo così, variata. Comincia con un qualche affanno nel introdurre i personaggi, poi però pian piano durante il film si scioglie e il film diventa molto godibile. Storia di padri, figli, nonni, nipoti e vicini di casa che si stanno antipatici, ma poi in fondo sono necessari l'uno all'altro. Oren, interpretato da Michael Douglas, è stato un grandissimo agente immobiliare nella sua contea, ma non è più un uomo dei tempi che corrono, è un uomo all'antica. Si è dato un obiettivo: vendere l'ultima villa, che era la villa bellissima nella quale viveva con la moglie ormai morta, e chiuso quello, tutti nel Vermont a svernare, a svecchiare. Nel frattempo invece vive in questa piccola casetta sul lago con questa vicina di casa, appunto Lea, un'altra vedova e cantante di nightclub quasi in incognito, cioè ha una grande passione che quasi è timida nel tirar fuori. Insomma, Lea, interpretata da Diane Keaton, e Oren sono vicini ma non si sopportano. Oren è difficile da sopportare in assoluto. Quando nella vita tutta proiettata a questa vendita di Oren arriva la figlia Sara, anzi la nipote Sara, dal figlio Luke, per un certo periodo, ecco che chiaramente tutto si scompagina. L'escamotage della figlia o della nipote che arriva a rompere i livelli e i crismi della vita di un personaggio non è sicuramente nuovo, però in questo caso migliora sicuramente la vita e l'esistenza di Oren e in fondo anche quella di Lea. Due grandi attori, Boris, una sceneggiatura, come dicevo, con qualche incertezza in certi momenti, ma insomma alla fine la macchina di Rob Reiner, bene o male, il film riesce a portarlo a casa. Assolutamente sì, sono d'accordissimo. Hai parlato di macchina ed è proprio questo, mai così vicini. Una serie di ingranaggi che si sposano l'uno con l'altro sempre più perfettamente. All'inizio bisogna oliarli un po' e poi vanno, che è una bellezza. Insomma, dopo il rodaggio il motore suona, anche perché chi lo guida, come può essere Rob Reiner, ma anche Michael Douglas, Diane Keaton e anche tanti ottimi comprimari, sono il meglio che c'è. Vendo giocare un po' con l'incrocio dei due generi che qui si incontrano, il genere tra virgolette geriatrico e quello dell'uomo insopportabile che in qualche modo riscopre la vita, si potrebbe dire, citando Rob Reiner, che non è mai troppo tardi. Si potrebbe dire che Douglas sotto sotto ha voglia di tenerezza, e citando lo sceneggiatore Andrews di questo film si potrebbe dire che qualcosa è cambiato, perché è lui lo stesso che ha scritto il film con Jack Nicholson, e in fondo se vedrete Mai così vicini capirete che sono due figli cugini. Qualcosa è cambiato, sicuramente più riuscito e anche più ambizioso, ma sempre fondato su questo attore e personaggio che invecchiando è peggiorato se possibile rispetto al passato, e che però trova, guarda caso, proprio con un vicino di casa il modo di riscoprirsi, di capirsi e di farsi capire anche dagli altri. Qui forse c'è un disincanto maggiore rispetto a quel film, e questo lo rende molto più divertente, soprattutto nella seconda parte. I personaggi si prendono in giro e lo prendono in giro, e lo fanno con quelle battute che ogni tanto salgono la bocca anche allo spettatore stesso, perché chiaramente Oren è quasi uno stereotipo, anzi senza il quasi, è lo stereotipo del misantropo, dell'uomo che non vorrebbe frequentare nessuno. E questo che cosa fa? Durante l'estate probabilmente non c'è bisogno di molto altro, c'è bisogno di divertirsi, di sorridere, di godere di qualche arguzia e di un regista che sa non essere banale, pur non essendo dirompente rivoluzionario. E Mai così vicini è esattamente questo: quello che promette mantiene. Io voglio fare i seggiolini volanti. Dai, seggiolini quelli volanti. Sono volanti e sono stato già troppo in aria oggi. Io ci andiamo, ti prego. Ma no, meglio di no, davvero. La nonna non è una persona da seggiolini volanti. Io non... Ma non è pericoloso. Niente? L'anno scorso ci sono andata da sola e avevo solo 9 anni. Ora ne ho 10. Ci sei andata da sola? Sì, sì. Andiamo ai seggiolini volanti, allora. Sì. Ok. Ci vai da sola. Allora, questo era il film sicuramente con le maggiori ambizioni di classifica della settimana, Mai così vicini, di Rob Reiner, ricordiamo, il papà di Harry ti presento Sally, quindi sempre in piedi quando si cita Rob Reiner. Grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora noi andiamo avanti perché è arrivato il momento di occuparci di cinema da vedere in casa, cominciando con la soluzione del gioco della scorsa settimana. Punto 3. Fa ginnastica, salti energizzanti. 1, 2, 3. Sono troppo pompato! E allora, si trattava di The Lego Movie, uno dei film più bizzarri sicuramente di quelli usciti in questa stagione che si va chiudendo, un film tutto realizzato al computer, ma tutto realizzato con i mattoncini Lego come protagonisti. Davvero un'orgia di Lego per chi ama questo gioco e chi non l'ha amato, chi non continua ad amarlo. E c'è davvero di tutti i gusti. The Lego Movie, indovinato per primi da Alberto Scaravilli di Milano e da Ida Mauro di Sorrento, o Mauro Ida, chi lo sa, uomo o donna, di Sorrento, provincia di Napoli. Saranno loro a ricevere la copia in edizione davvero speciale, e dopo scriveteci sulla nostra pagina Facebook La Rosa Purpura Radio 24 che regalino vi abbiamo fatto, la copia di The Lego Movie, di cui parliamo con Giulio San Giorgio e con gli amici di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, mentre in sala stanno per uscire i giocattoloni di Transformers 4, noi ci godiamo decisamente del Lego Movie, delirante Matrix a misura di bambino, giocato tutto su un'ironia metacinematografica, demente e anche adulta, consacrato dal Guardian come miglior film di questa prima parte di anno. Il film esce in Blu-ray Warner, un Blu-ray che negli Stati Uniti è già in cima alle classifiche di vendita. Confeziona due dischi, versione 3D e 2D ad altissima resa, un bellissimo cofanetto cartonato con in regalo un omino Lego Vitruvius e un ricco comparto di extra con approfondimenti sulla creazione del mondo digitalizzato di mattoncini, scene tagliate, la canzone Tormentone è meraviglioso in sing-along, corti girati dai fan e molto molto molto altro. Una delle migliori uscite dell'anno sicuramente. Passiamo invece al cinema in televisione, andiamo a dare un'occhiata ai palinsesti della prossima settimana, il 15, martedì 15, un film davvero molto bello in prima TV su Rai 5 alle 21:15 in prima serata, tanto i mondiali sono finiti, quindi buttatevi sul buon cinema, Il Giardino di Limoni. Sì, martedì su Rai 5 alle 21:15, un film metafora ovviamente di strettissima attualità, questo è Il Giardino di Limoni del 2008, in cui Riklis, regista israeliano, contrae i confini dello Stato israelo-palestinese dentro i limiti di un giardino. Il ministro della difesa israeliano e sua moglie traslocano in una nuova casa sul confine con la Cisgiordania. La loro vicina di casa è una vedova palestinese che cura il suo giardino di limoni come la cosa che ha di più caro. Quando però le viene detto che gli alberi devono essere abbattuti per motivi di sicurezza, la donna porta la sua causa davanti al tribunale israeliano. I territori esteri e pericolosi qui sono il giardino di chi ci vive accanto e lo stato ostile è in carico una donna che innaffia le sue piante. Con queste forzature Riklis riesce a far esplodere le contraddizioni, la follia e la tragica assurdità della situazione medio orientale. E ricordiamo quindi l'appuntamento Rai 5 21:15 in prima TV martedì 15 luglio, Il Giardino di Limoni. E invece arriva dal cinema coreano con un mix produttivo che comprende anche il Giappone, The Host. Mercoledì su Rai Movie alle 22:45, Bong Joon-ho, regista coreano di uno dei migliori film dell'anno, l'action distopico, allegorico e decisamente politico, Snowpiercer, dopo l'esaltante Memories of Murders ci regala un film incredibile, un monster movie ad altissimo budget e resa spettacolare, capace di essere serio e faceto, grottesco, ma emotivamente trascinante, insieme politico e fiabesco, teso e commovente, il massimo incasso ancora oggi coreano d'ogni tempo, per molti il miglior film di sempre nell'eccentrica categoria film commossi, un film davvero imperdibile. E allora The Host lo potete vedere su Rai Movie alle 22.45 di mercoledì 16 luglio. Grazie Giulio, appuntamento la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati allora alla fine della nostra rosa purpure di questo fine settimana. Grazie a Lorenzo Nespoli in redazione, a Peter Bescapè che ci ha aiutato in regia. L'appuntamento va a sabato e domenica prossima, come sempre, qui per parlare di cinema su Radio 24.